Stefano Folli. A questo punto gli appelli contro l'ostruzionismo al Senato servono a poco, così come serve a poco l'ostinazione ad andare avanti a oltranza per chiudere tutto entro Ferragosto. La fretta è quasi sempre cattiva consigliera, specie quando c'è di mezzo la riforma della Costituzione. Ancor meno utile è la polemica del PD contro il presidente Grasso perché ha concesso alcuni voti segreti. Le regole si rispettano anche quando non piacciono. È più saggio cercare un minimo di compromesso fra le parti, che vuol dire smussare con una mediazione i punti più controversi del disegno di legge. Si fa così in tutti i parlamenti del mondo quando si discutono passaggi fondamentali che cambiano il volto dell'istituzione. Ed è quello che dietro le quinte sta facendo il Presidente della Repubblica. Da un lato sostegno alla volontà riformatrice del governo Renzi, dall'altro ricerca del risultato possibile. Perché l'ostinazione da sola non basta se non è accompagnata da un po' di senso politico. Fra le riforme, magari in tempi più lunghi, e le elezioni anticipate nel caos, forse è meglio la prima soluzione.